piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. È morto Spelacchio. Tutti lo abbiamo sulla coscienza. Non è stata giusta l'azione denigratoria che ha colpito questa abete, che poi in realtà non era nemmeno un abete, pare fosse un larice, e anche messa in dubbio la sua provenienza. Da giorni al centro di Piazza Venezia, Roma, ha rappresentato la nostra mesta rassegnazione sul fatto che comunque, qualunque cosa possa succedere, il Natale arriva sempre. Spelacchio è stato fedele al suo mandato, è restato in piedi, vigile, ardimentoso, come se fosse stata la terza sentinella all'altare della patria, nonostante sia stato regolarmente deriso, vilipeso, condannato all'isolamento sociale. Qual è stata dunque la colpa di Spelacchio? L'essere nato con la fronda moscia, soffrire di alopecia, di caduta precoce degli aghi, di non avere sempre il ramo dritto? Noi che siamo pronti a fare pubblica ostentazione di solidarietà per ogni essere umano, gattino, cagnolino, vittima di sessismo e discriminazione, perché non ci siamo mobilitati per difendere Spelacchio da quello strisciante, condiviso razzismo vegetale che ha avuto l'incivile e bieca sfrontatezza di umiliarlo, contrapponendogli come modello di razza arborea eletta il perfettissimo e svettante abete di Piazza Duomo a Milano? Spelacchio, ora che non ci sei più, siamo con te. Non devono esistere abeti di serie A e abeti di serie B. Tutti devono avere pari dignità e pari diritto ad essere addobbati con palle e lucette colorate. Riposa in pace, Spelacchio, abete diversamente addobbabile. Anche tu hai diritto, come ogni altro tuo simile, a un giusto e degno funerale. La favola di Spelacchio, una volta vispo il rigoglioso abete rosso secolare della Valle di Fiemme, non finisce ma continua infelicemente così sotto gli occhi di tutti i turisti romani in una delle piazze principali della capitale. Il comune ne ha dichiarato la morte lunedì e se prima l'intenzione era quella di rimuoverlo, ora è certo che il moribondo abete non verrà sostituito. Una storia triste la sua, trasfottò critiche spietate e persino qualche mistero che qualcuno prima o poi dovrà svelare. I segnali del suo malessere in fondo già c'erano e si vedevano. Appena arrivato a Roma 15 giorni fa per simboleggiare il clima natalizio, Spelacchio, 21 metri di altezza, ha cominciato giorno dopo giorno ad abbattersi, seccandosi fino a perdere aghi e rami troppo avvizziti per puntare in alto e illuminare con 600 palle e 3 km di luci LED queste festività. Ora è chiaro che una volta sradicato un albero comincia a morire, ma nel caso dell'abete è in grado di restare rigoglioso almeno per un mese e mezzo, due. Spelacchio invece si è arreso prima. E ora comincia il rimpallo di accuse tra chi ha gestito la delicata operazione di slegatura della pianta una volta arrivata a Roma e chi invece se la prende con la ditta che si è occupata del trasporto dell'albero, pagato dal comune capitolino 48.000 euro. Era una bella pianta, l'abbiamo tagliata, i rami legati con molta attenzione perché i nostri operai ci hanno dedicato molto tempo, e poi durante il tragitto, durante le fasi successive, qualcosa è successo, perché effettivamente adesso non dà la stessa impressione che dava quando l'abbiamo tagliato. Il caso Spelacchio è anche finito alla Corte dei Conti con un esposto del Codacons in cui chiede alla giustizia contabile di indagare su un possibile danno erariale, mentre il web si sfoga con quella ironia tutta romana capace di sdrammatizzare anche le tristi sorti di Spelacchio. E allora ecco vignette, pagine interamente dedicate all'abete e persino funerali che fanno comunque di Spelacchio una triste icona di questo Natale. È stato segnalato che in diretta concorrenza con quello che noi stiamo facendo, Mosse da Pietà, c'è qualcuno che parla di utero e ginecologia. Risparmiate per un attimo la vostra cupidigia e ascoltate con noi quello che è il dramma di un povero albero che è stato sradicato dalla sua terra d'origine, come se fosse un clandestino, è stato portato al centro di Piazza Venezia, luogo abituato ad accogliere le adunate oceaniche, e lui sta lì, fermo, dritto, ormai clinicamente morto, ma nessuno ha il coraggio di staccare i tiranti. E cosa voi vorreste in questo momento per la serenità di Spelacchio e a questo noi vorremmo dedicare la nostra trasmissione. Oggi Spelacchio è sulle prime pagine di tutti i giornali. I più illustri opinionisti, da Mattia Feltri a Massimo Gramellini, dedicano i loro sentiti editoriali proprio a Spelacchio. Un albero che non aveva altro destino che quello di essere indicato come la macchietta di tutti gli alberi di Natale del mondo. Spelacchio è considerato l'albero mal riuscito, l'albero che mai sarà un albero felice di Natale, l'albero non ha avuto nemmeno possibilità di essere albero di Natale. Perché? Perché è diversamente addobbabile, perché segnato comunque da una anomalia. Non si sa se questo accade per un suo motivo genetico, lo è così dalla nascita, è diversamente addobbabile la nascita, o le pratiche sadomasochistiche di legamento e slegamento cui è stato sottoposto sono state per lui natali. Beh, comunque sia, oggi chiamate all'8 00 24 00 24, aiutateci insieme a lanciare un grido deciso da parte di tutta la popolazione sensibile del nostro paese su quello che sarà il destino ultimo del povero Spelacchio. Spelacchio è morto. Non c'è stata nessuna pietà per un albero diversamente addobbabile. Continua anche di fronte al suo cadavere la vergognosa campagna denigratoria e umiliante per una creatura la cui unica colpa è quella di essere stato sradicato dalla sua terra d'origine. Mancano 4 giorni a Natale e Spelacchio, pur vegetalmente morto, è costretto a mostrare l'indecoroso spettacolo della sua decomposizione. Voi, persone civili ed empatiche verso ogni creatura senziente, che fine fareste fare a Spelacchio? Chiamate all'800 24 00 24 e diteci voi cosa fareste. 1. Segarlo a pezzi e usare la legna per riscaldare i cari amici senza fissa dimora della stazione Termini. 2. Imbalsamarlo ed esporlo al Museo di Arte Contemporanea come opera d'arte concettuale. 3. Fare un grande falò pagano a Piazza Venezia in occasione del solstizio d'inverno, il 21 dicembre, evocando streghe e demoni. 4. Riportarlo indietro e dargli degna sepoltura nella sua Val di Fiemme. Entrate, se possibile, nell'aspetto più sublime dello spirito natalizio e cercate di essere empaticamente vicini a quel povero albero, ormai in questa zona intermedia fra la vita e la non vita, attaccato alla posizione verticale soltanto dei tiranti. Basterebbe staccare i tiranti e fare un gesto umanitario e lui passerebbe appunto nel paradiso degli alberi. Cosa ne vorreste fare? Perché ormai non si tratta più di parlare di Spelacchio, il perché, il per come, di chi è la responsabilità, di cosa sia metafora, sono meschine letture umane. Oggi Spelacchio è sospeso fra cielo e terra. Quindi cosa vogliamo fare di Spelacchio? Ricordo i punti del nostro sondaggio a cui potete rispondere chiamando all'8 00 24 00 24. Quello che voi direte comunque sarà reso noto a chi può e probabilmente inciderà su quella che è la fine serena di Spelacchio. 1. Segarlo a pezzi, ma segarlo a pezzi per un fine utile, farne legna da ardere e andare a fare dei focherelli alla stazione Termini, che è piena dei nostri cari amici senza fissa dimora, e scaldarli per una notte. 2. Imbalsamarlo, esporlo in un museo di arte contemporanea. Roma è piena di grandi musei, il Macro, il Maxi, la Pelanda. Beh, lo plastifichiamo e lo esponiamo come opera d'arte concettuale, come monito a quello che è stata la sconsideratezza umana verso i nostri amici vegetali. 3. Fanno un grande falò pagano a Piazza Venezia, fare il rituale del solstizio d'inverno, rituale pagano, evocare streghe, demoni, spiriti della notte. Si fa un grande falò e si salta sul falò, come facevano una volta nelle nostre campagne, come facevano gli evocatori momenti particolari. Questa è una notte particolare, il solstizio d'inverno, notte pagana, massonica, necromantica. Beh, facciamoci un rito pagano a Piazza Venezia, potrebbe farci bene. 4. Riportarlo indietro e seppellirlo in Val di Fiemme, nella sua terra di origine. 800 24 00 24. Beppe, buongiorno. Beppe caduto. Beh, aspettiamo allora, ridò il numero 800 24 00 24. A questo punto non è più tema l'accanimento terapeutico nei confronti di Spelacchio. Spelacchio a tutti gli effetti clinicamente morto. Che fare lo Spelacchio sospeso appunto fra vita vegetativa e al di là degli alberi? Beppe. Salve, buongiorno. Senta, io sarei un laureato in scienze forestali e ambientali, ah, quindi perfetto. Intendo un po' di piante. Sì. Volevo dire, ho sentito dire da lei, perché io non ho visto la pianta, che trattasi di forse di un larice. Di un larice, sì. Benissimo. Siccome, allora io... siccome è venuto senza documenti, era un sampapie quando è arrivato, non si è capita bene la sua origine. Qualcuno dice sia un larice rosso, mi sembra. Ecco, no, non esiste larice rosso. Vede, anche su questo poveraccio non ha nemmeno il diritto di una cittadinanza. Allora, larice si chiama botanicamente Larix decidua. Decidua proprio perché cadono gli aghi, e forse è una delle poche conifere. Ce ne sono, c'è qualche altra conifera che perde gli aghi. Quindi era normale per lui perdere gli aghi? È chiaro che fosse normale. Quindi non è morto, probabilmente è normale che sia così. Probabilmente sia ancora vivo. Quindi lei, però... ci sta dando una grande notizia. No, fermi un attimo, perché questo sconvolge tutta la lettura che questa mattina hanno fatto i quotidiani. Lei è esperto in botanica e dice che è morte apparente, quindi è normale per lui perdere gli aghi. Potrebbe essere anche morto, però c'è il problema. Potrebbe essere morto perché una pianta così grande, di quell'altezza, non si può sradicare, anche se si fa una bella zolla, non si può sradicare così da un momento all'altro. È come ucciderlo. Ecco, se avessero voluto una pianta affrancata, cioè fatta bene, che non morisse, dovevano prepararla già dall'anno scorso, cioè zollare la pianta lasciando una parte della radice. Pian piano togliere le radici. Attaccata alla madre terra, perché le piante hanno le radici dinamiche, sono quelle grosse, quelle che servono a sostenere, a tenere in piedi la pianta, mentre le radici che assorbono sostanze e acqua dal terreno sono le capillari, che si trovano molto lontane dall'albero, insomma. Quindi nel momento in cui si va a fare la zolla, pure se la si fa di 60-70 centimetri di raggio intorno, non avrà mai radici capillari, perché quelle si trovano lontane, avrà soltanto dei munconi di radice vecchia, insomma. Quindi la scelta di un larice, la scelta di un larice è già sbagliata, non era al posto suo. Cioè, non era il larice, se è certo che fosse il larice, ripeto, io non l'ho vista la pianta. Guardi, poverino, è come le persone che vengono prese dai barconi, nessuno lo sa bene, che non c'è un documento d'origine. Se fosse un larice, Spelacchio però avrebbe delle speranze di vita, quindi non bisogna staccare i tiranti. Però sono speranze molto, molto, molto... E quale sarebbe la terapia per riportarlo in vita, eventualmente? Guardi, tanto affetto. Sarebbe dovuta preparare la pianta, cioè che come si fa l'operazione di trapianto di una pianta di una certa dimensione? Si lascia, si taglia intorno, si fa una trincea intorno, un solco di 30 centimetri fino ad un certo punto, non si chiude la circonferenza, si lascia almeno una radice ancora legata. Ma se fosse pianta. Un'altra ipotesi, poi un abete rosso invece di un larice, che è anche un'altra delle ipotesi? La storia è sempre la stessa. Sempre la stessa, è la stessa cosa. Soltanto che l'abete rosso, le foglie e gli aghi non cadono, è sempre verde. E quindi almeno un mese riesce a resistere. Comunque sia, è chiaro che ormai ha un piede nella fossa, già l'hanno dato per morto, quindi noi capiremo cosa fare. Però rende ancora più inquietante questa incertezza sulle origini. Poverino, è veramente come lo smemorato di Collegno, come qualcuno che non ha nemmeno più memoria di quella che è stata la sua origine. Grazie Beppe. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa penserebbe di fare delle quattro ipotesi? Io sono favorevole alla prima ipotesi. La segatura? Sì. Andrebbe fatto in piccoli pezzi, poi essendo secco brucia bene, secondo me. Assolutamente sì, penso che in questo modo sarebbe utile a tanti. Quindi, lei si intende di piccoli fuochi per scaldare? Perché bisognerebbe capire come farli per farli stare in sicurezza, perché tutto intorno alla stazione Termini dormono almeno 30-40 persone la notte. Bisognerebbe fare almeno una decina di focherelli perché si scaldino tutti. Ma direi di sì, o scaldarli oppure utilizzarli per cuocere, non so. Fare una grigliata, anche sì, una grigliata. una mega grigliata. Sarebbe un bel passaggio per Spelacchio. Grazie. Maria Luisa. Buongiorno. Lei cosa vorrebbe farne? Io? Monumento, opera d'arte. Numero due, la stupidità di tutto questo va testimoniata, no? Quindi imbalsamarlo, plastificarlo, esporlo come opera d'arte, un monumento alla vessazione umana nei confronti dei poveri alberi, ecco. Complimenti per come lei sta introducendo il tutto, perché in effetti... Guarda, vorrei sentirmelo dire ogni momento felice della mia vita, complimenti come sta introducendo il tutto. No, grazie. Complimenti, perché l'ha messa giù molto bene, io trovo comunque questa nostra stupidità mi riempie d'orgoglio. Giusto? Perfetto, grazie. Qualcuno non è d'accordo perché qualcuno mi sta scrivendo: Nicoletti, è dura non avere argomenti. Argomenti, è l'argomento del giorno. Le prime pagine di almeno 5 quotidiani sono dedicate a Spelacchio. Non ho argomenti. Anticipai io l'ode a Spelacchio una settimana fa, la feci sul mio quotidiano, sulla Stampa, sottolineando il dramma di questo povero albero. Roberto, buongiorno. Roberto. Pronto? Sì. Sì. La sua ipotesi, la sua ipotesi. La mia ipotesi è quella di riportarlo in Val di Fiemme e metterci sopra una bella lapide con su scritto: qui giace Spelacchio, vittima dell'ignoranza comune. Sarebbe bello, cioè riseppellirlo nella sua terra natale, fare sì, una bella tomba. Perché non, cioè parte tutto dal presupposto, cioè è sbagliato il presupposto, 40.000 euro per una pianta viva. Adesso non entriamo in questo... Potrebbero essere stati ben spesi dalla felicità. Non, non mi interessa l'aspetto politico, è colpa di questo. In questo momento sottraiamo l'attenzione al contesto e fermiamoci sull'essere animato che è stato in qualche maniera al centro questa vicenda. A me sta a cuore la felicità di Spelacchio, non tanto quello che c'è dietro. Poi sarà appurato in altra sede. Quindi lei è la scelta numero 4, riportarlo indietro e dargli degna è sepoltura. È una bellissima fiaba per bambini anche. Portare i bambini, portare le scolaresche a vedere la tomba di Spelacchio e farle riflettere su quello che può essere la vita e il destino ancora oggi, una società che si dice civile, per un albero diversamente addobbabile. Spelacchio è morto. Non c'è stata nessuna pietà per un albero diversamente addobbabile. Continua anche di fronte al suo cadavere la vergognosa campagna denigratoria e umiliante per una creatura la cui unica colpa è quella di essere stato sradicato dalla sua terra d'origine. Mancano 4 giorni a Natale e Spelacchio, pur vegetalmente morto, è costretto a mostrare l'indecoroso spettacolo della sua decomposizione. Voi, persone civili ed empatiche verso ogni creatura senziente, che fine fareste fare a Spelacchio? Chiamate all'800240024 e diteci voi cosa fareste. 1. Segarlo a pezzi e usare la legna per riscaldare i cari amici senza fissa dimora della stazione Termini. 2. Imbalsamarlo ed esporlo al Museo di Arte Contemporanea come opera d'arte concettuale. 3. Fare un grande falò pagano a Piazza Venezia in occasione del solstizio d'inverno, il 21 dicembre, evocando streghe e demoni. 4. Riportarlo indietro e dargli degna sepoltura nella sua Val di Fiemme. 800240024, agli ascoltatori più attenti non sarà sfuggito il singulto di odore, il sospiro nella lettura da parte della nostra voce del sondaggio, Stefano Sfondrini, che per la prima volta ha dimostrato di essere umano, piange e singhiozza mentre legge quello che è il destino ultimo di Spelacchio. Gianna, buongiorno. Buongiorno. Quale punto lei vorrebbe applicare a ciò che rimane ormai di vitale in Spelacchio? Beh, facciamo una piccola variazione sul tema, sì, di farne un oggetto museale, però a cielo aperto. Io, povero Spelacchio, lo lascerei esattamente lì dov'è perché è mio diritto, dopo un lungo viaggio, però creandone una sorta di grande ikebana, coperto di neve, con decorazioni varie, magari. Ma a Ferragosto scoperto di neve forse stona un po' con la piazza, no? Perché a Ferragosto? No, ma mica per sempre. Adesso? In questo periodo natalizio. Diciamo camuffarlo, fare una cosmesi necrotica. Come lasciarlo lì. Sì, come fanno le pompe funebri attrezzate, quando il cadavere lo imbellettano, una sorta di cosmesi da cadavere. Non da cadavere, assolutamente no. Chiamate che il Comune di Roma può, sì, chiamare una consulenza di un, sì, giapponese, ne crea una bella installazione di ikebana. Cioè lo ricopre di carta in modo che sembri... Ma dentro lascerebbe, diciamo, la spoglia di Spelacchio, sì. Sì che la lascerebbe. La ricoprirebbe di carta in modo che ci sarebbe un simulacro che allo stesso tempo sia rappresentativo. Un'ottima idea, Gianna. Sì. Complimenti, bella idea. Niki, buongiorno. buongiorno Nicoletti e sì. Buongiorno alla redazione. Io invece ho un'idea un po' più diversa dal solito. Sì. Se l'albero dovesse essere potato, a questo punto io farei una vendita... Potare, come tagliare le unghie a un morto, non c'ha senso, ormai che pota. Tagliarlo a pezzi come delle reliquie e quello che si ricava dalla vendita di questi pezzi di questo larice serviranno per poter piantumare nuove piante nella zona dove è stato tolto e nelle zone dove praticamente sono state distrutte i boschi per via dei piromani, per via degli incendi. No, aspetta, lei ha detto una cosa molto intelligente, trasformarlo in tanti, cioè spezzettarlo in tante piccole schegge, come si dice, esatto. A volte vendevano i pezzi della croce, queste cose qua. Sì, esatto, farne dei esatto. Piccoli reliquiari che si vendano, dei gadget, magari venderli online con una piattaforma di e-commerce. Con la reliquia di Spelacchio finanzi il piantare altre nuove piante. Perfetto, una bellissima idea mi sembra. È morto? Cosa succede? Ecco, e lei ci mette la terra, ci mette una pianta, lei cresce, quindi può essere usata anche per poter generare, germogliare altre piante. Ah, usarle per innestarci le nuove piante. Esatto, esatto. Ma questa sarebbe anche una cosa simbolica, prendo una scheggia di Spelacchio, innestarci una pianta giovane, metterla sottoterra e nascerebbe comunque da Spelacchio. Avrebbe esatto, figli, esatto. Spelacchio avrebbe dei figli quindi. Esatto, avrebbe una continuazione, avrebbe anche un qualcosa di ecologico. Di, diciamo di clonare, la sua proposta è clonare Spelacchio, la clonazione sarebbe a tutti gli effetti. È un po' come l'araba fenice secondo me, le ceneri nascerebbero. Beh, sarebbe bello, lei pensi a una cosa rituale, proprio lì davanti, la sindaca di Roma prende il pezzetto di Spelacchio, ci infila la gemma dell'albero giovane, lo pianta in un vaso davanti proprio lì al Milite Ignoto. Dopo qualche mese comincia a nascere la pianticina, tutte foto, telecamere, una specie di reality show. In diretta nasce il clone di Spelacchio e il prossimo Natale saranno tanti spelacchini a Piazza Venezia. Idee fantastiche, bravissimo. E Claudio ha parlato? Flavio? Pronto? Sì, Flavio. Mi sentite? Ciao, l'ascolto, buongiorno Nicoletti. Sì. Io avrei un'alternativa, non so... Sarebbe la quinta opzione. Sì, ma io funerale di Stato con sì. Bara in pelle umana, visto che comunque l'abete è il materiale più usato per la costruzione delle casse mortuarie. Certo. E poi lo seppellirei direttamente al Pantheon in piedi, con la punta che esce proprio dal buco sopra del Pantheon. Dal buco. Beh, se tanto è alto, è lunghissimo, c'entrerebbe giusto. Diciamo che l'altezza di Spelacchio servirebbe a cogliere l'apertura in cima nella cupola del Pantheon. Se ne è parlato molto. E poi sembra anche un luogo adatto. No, però guardi, lei una sorta di legge del contrappasso, come l'abete ha fornito vestito in legno per tante salme umane, è solo la pelle umana chi la mette, però la mette lei, quello è il problema. No, i nostri amministratori romani. Vabbè, bisognerebbe scuoiarli, dai, non mi sembra una cosa certo, possibile. Certo. Vabbè, quindi lei prevede uno scuoiamento pubblico degli amministratori, costruire come il mostro del famoso Silenzio degli Innocenti che costruiva i vestitini con la pelle delle sue vittime, costruire una bara in pelle umana e dentro metterci Spelacchio. Beh, ce ne vorrebbero tanti, non basterebbero tutti, perché ci vorrebbero anche le giunte precedenti dalle origini da Romolo ai tempi nostri per fare un barone per Spelacchio. Comunque, anche questa è un'ipotesi. Claudio. Pronto? Sì. Sì. Niente, io opterei per appunto tagliare l'albero, farne tanti pezzi. La soluzione, sì, diciamo... Però è quello che mi dà un po' fastidio, non so se posso fare una critica, è un po'... Qua siamo. Un po' l'antropizzazione dell'albero, nel senso, ma perché non lo lasciamo stare? Cioè, mi sembra che lo stiamo trattando come... Oh, un fenomeno da baraccone. È quello che ho detto io dall'inizio. Lei ha sentito la mia ode. Lo abbiamo trattato con ignominia. Noi abbiamo umanizzato nella maniera peggiore quest'albero, creandone una sorta di oggetto di bullismo sociale. Tutti bravi a fare i bulli con lo Spelacchio degli altri. Ognuno ha uno Spelacchio nell'armadio di casa propria. Questo è simbolicamente quello che volevo dire. Grazie Claudio, ha proprio interpretato il mio pensiero. Paolo. Pronto, eccomi. Allora la proposta potrebbe essere quella molto pratica, sì di mummificarlo ricoprendolo di plastica, sì, o renderlo inattaccabile dagli elementi. Certo, facile, oggi sono mille materiali. Per ricoprirlo di stupende lucine a LED e riusarlo, certo, per tutti gli anni a venire, per evitare l'insensatezza di ripara. Lei ha detto un'altra, una, guardi, io mi meraviglio, ma non meraviglio perché conosco la qualità intellettuale del mio pubblico. La sua è una proposta, fa farne un albero di Natale perenne, cioè lo plastifico, sì, quindi lo immobilizzo, diventa eterno, quindi oggi con le tecniche ci sono, con i materiali che ci sono, esatto, plastificarlo è un attimo, diventa indistruttibile. Fare un impianto di luci LED bellissimo, fantastico, meraviglioso, e ogni anno riusare Spelacchio, quindi Spelacchio per sempre. Usare Spelacchio. Beh, sarebbe, cioè, il simbolo dell'abiezione degli alberi di Natale, l'albero diversamente addobbabile che non aveva diritto di essere addobbato, in realtà rimarrà sempre lui. Beh, una grande, un grande esempio di riscatto sociale. Bravo Paolo. Daniele. Nicoletti, buongiorno. L'ascolto. Io penso che sia stato vittima del bullismo giornalistico, quindi sono per anche bullismo sociale. La versione 2, che diventi un monumento contro il bullismo. Quindi la vetrificazione e, diciamo, l'esposizione di Spelacchio potrebbe anche girare l'Italia, come faceva la Madonna Pellegrina, portarlo nelle scuole a vedere, cioè, bambini, ragazzi, guardate Spelacchio, era considerato l'ultimo degli alberi, il Calimero degli alberi, e oggi è un albero eterno, quindi anche la vittima del vostro atto di bullismo domani potrebbe diventare Einstein, quindi attenzione. Anche questa è una proposta profondamente intelligente. Paolo. Paolo Fatto. Stefano. Pronto? Stefano. Sì, io ho avuto un'idea. Dei pezzi di Spelacchio sembrerebbero essere usati per un parco per bambini, farci delle panchine, delle cinzioni. Le altalene. Bambini, quello si dovrebbe quindi fare. Lei ha competenza, cioè farne delle tavole. Queste cose. Farne delle tavole, quindi bisognerebbe prendere il tronco, farne tante come tavole. Tante tavole. Sì, appunto. E poi farci anche scivoli, altalene, queste cose qui. Pensa allo scivolo con Spelacchio, l'altalena Spelacchio, la panchina Spelacchio, il calcio in culo Spelacchio. Si può fare una specie di parco giochi intitolato a Spelacchio. Anche questo sarebbe un ottimo riciclo. Voi persone civili ed empatiche verso ogni creatura senziente, che fine fareste fare a Spelacchio? Chiamate all'800 24 0024 e diteci voi cosa fareste. 1. Segarlo a pezzi e usare la legna per riscaldare i cari amici senza fissa dimora della stazione Termini. 2. Imbalsamarlo ed esporlo al Museo di Arte Contemporanea come opera d'arte concettuale. 3. Fare un grande falò pagano a Piazza Venezia in occasione del solstizio d'inverno, il 21 dicembre, evocando streghe e demoni. 4. Riportarlo indietro e dargli degna sepoltura nella sua Val di Fiemme. Patrizio suggerisce ibernarlo e aspettare un periodo in cui l'umanità sia progredita e abbia modo di farlo tornare in vita. Ottima idea. Farci dei pellets. Oppure una signora scrive, Sorin, Gianluca, dopo aver sentito questa tua trasmissione ho deciso di andare in chiesa, accendo una candela per Spelacchio. Ecco, una conversione. Spelacchio riesce a aprire il cuore e finalmente la luce divina è entrata in questa signora. Loris. Salve. Roma. Io proporrei una quinta ipotesi, siccome sono un redattore, ho lavorato in scenografia, sì, sì, di rendere sistemare dei rami veri vincolandoli a quelli esistenti per farlo ridiventare nuovo. Ah, ma è come mettere, diciamo, come si mette il parrucchino o uno un posticcio in testa. Sì, una cosa scenografica. Ma lei che è uno scenografo, non può esistere magari un materiale che non sia proprio un altro albero, farlo con dei finti rami di plastica, sì, belli. Ci sono dei finti rami. Quelli che usate per le scenografie, ecco, sono più leggeri. Esatto. Quindi esatto, si potrebbero incorporare rami finti, metterli come mettergli una parrucca, la stessa cosa. Esatto, perfetto. E se la mettono gli umani non può metterla a Spelacchio, è vero. Sarebbe un intervento costoso dal punto di vista del budget, lei che è del mestiere. No, non penso, ci potranno 1.000-1.500 euro al massimo. Si prende roba cinese, i negozi cinesi sono pieni di piante. Sicuramente. Si prende roba cinese, si mandano dei cinesi a attaccare ai rami secchi di Spelacchio, i rami verdi. Ah, siccome voi mettete il parrucchino in testa, il posticcio, il riporto. Fare un riporto a Spelacchio e dargli ancora nuova vita. Altra ipotesi fantastica. Francesco. Francesco. Dica, la sua ipotesi. Per la chiamata. No, grazie a lei per il contributo. Sì. Che non l'avete messa in considerazione. Ma la suggerisco. Io lo terrei in piazza fino a che campa, fino a che lui può resistere, e c'è la gente che passa, lo guarderebbe, lo ammirerebbe, e considererebbe più di tutti gli altri i suoi predecessori. secondo me. Dai, guardi, secondo lei ha detto una cosa molto profonda. In alcuni ordini monastici c'era questa tradizione, oggi forse persa, dello sgocciolatoio. La salma del monaco, della monaca, quando moriva, veniva messa in una sorta di sedile di pietra con un buco sotto, in modo che i confratelli potessero seguire tutte le fasi della putrefazione, della mineralizzazione, e della carne che marcisce, e trarre da questo un memento mori, ricordarsi quanto sia caduca la vita. Quindi sarebbe un grande esempio di non dare troppo peso alle pompe mondane, e Spolacchio sarebbe un esempio di vita, che le cose essenziali che contano sono quelle dello spirito. Quindi Spelacchio come monito contro le pompe mondane, altro grande esempio. Antonio. Sì, salve. L'ascolto. Allora, io ho un'idea per renderlo più attraente. Appenderei su tutti i rami tutti gli appartenenti del partito politico del PD. Vabbè. Tutti i rappresentanti praticamente metterei, cioè, secondo me fa ridere sta battuta, scusi. Adesso, Ricchetti, no, posso dire chi metterei? Ricchetti sicuramente. Cioè vorrebbe impiccare delle persone? No, impiccarle, ho detto, li appenderei sui rami. Non in maniera cruenta, che vivi. No, non per il collo. No, come una gogna, fa conto. No, li appoggerei lì sui rami. Quelli che gli stanno antipatici a lei li mette, solo quelli? No, quelli del PD. Ah beh, che c'entra il PD, poi in questo caso c'entra poco. Comunque va bene. Oh, no, poi metterai Renzi, che appunto con tutte le palle che c'ha lui. Quindi... Sì, però Antonio, questo è un momento che stiamo parlando della vita di un essere vegetale che ha già avuto disprezzo, tortura, vilipendio. Sta lì, poverino, fra vita e morte, appoggiato con dei tiranti che lo tengono in vita, non vede l'ora che gli stacchino. Ci guarda con i suoi occhi verdi e ci dice: staccate i tiranti, lasciatemi andare in pace. Lei prova a fare una battuta dicendo una cosa che non fa manco ridere, mettici quelli che a lei stanno sulle palle. Gliela lascio dire, se questo l'appaga, la fa star contento. Però è un oltraggio al povero Spelacchio che sta soffrendo, però noi siamo una trasmissione aperta. Prendo atto, lei dice, metterci i rappresentanti del PD, con Renzi che ha le palle. Va bene. Cleto. Sì, pronto? L'ascolto. Mi sente? Sì, buongiorno. L'ascolto, sì. Ci ascolta, ecco, ci dica lei la sua versione di cosa farebbe di Spelacchio. No. Ma Spelacchio lo prenderei io, come nel mio comune a Pineto, in provincia di Teramo, in Abruzzo. Lei cos'è, il sindaco di Pineto? Come? È il sindaco di Pineto, lei? Io sono il vice sindaco. Ah, vice sindaco. Oh, bene, un'offerta dal comune di Pineto, viene un'offerta generosa. Cosa fareste voi a Pineto di Spelacchio? Ma guarda, io lo prendo, se lei mi mette in contatto, perché assolutamente, io con la sindaca Raggi immediatamente, la mettiamo in contatto con il comune di Roma. Se lei mi mette in contatto, sì, io prendo Spelacchio, me lo porto a Pineto e sarà addobbato il prossimo anno spelacchiato, così lo lasciamo vivere da morto. E potreste anche cambiare il comune da Pineto a Spelacchieto, potreste chiamarlo. Perché Pineto con il pino che tutti ce l'hanno? Spelacchieto. Il vice sindaco di Pineto. Però noi abbiamo tanti pini, abbiamo tanto verde, così sappiamo anche come trattarlo. Un atto di generosità. Il vice sindaco del comune di Pineto dice: ce lo prendiamo noi. Se voi non lo volete, gli ridaremo dignità. A noi sta bene anche così, anche spelacchiato. Ce lo prendiamo spelacchiato e lo mettiamo nel nostro comune, che è Pineto. Cleto, vice sindaco di Pineto, sì, comune inneggiante alpino, che se ne intende di alberi, lo prenderebbe, forse cambierebbero anche nome da Pineto in Spelacchieto. Grande operazione. Angelo. Buongiorno, io sono per il rito pagano. È il primo, sa che è il primo, noi siamo un paese molto, molto tradizionalista. Lo so, intanto perché avremo due funzioni, uno riporteremo, diciamo, i vecchi antichi fasti di Roma, li riporteremo in un luogo. Quella bella radice, deputato, scusi, no? Chiaro, ecco, quella bella radice massonico risorgimentale rappresentata, perfetto, dall'altare della patria, no, riavrebbe, benissimo, nuova vita, chiaro. Ecco. Quindi ci darebbe diciamo una nuova cosa. E poi perché il fuoco, lo sappiamo, è un rito catartico. Certo. Quindi in realtà ci porteremo dietro tutto, cioè porteremo via tutto questo anno che ci ha devastato. Riusciremo purificati. Certo, una palingenesi sarebbe, una palingenesi, una nuova nascita. Ottimo, io penso che questa potrebbe essere la soluzione. Senta, ideale, ma lei, che lei mi sembra esperto, però di smaltimento, tanta roba, insomma. Vabbè, no? Poi col carbone si fa la carbonella, cucina la bistecca. Sì, però sì, una sì, cosa, sì. Angelo, lei potrebbe dire come avviene questo rito del fuoco, che io non ho molto presente. Beh, rito, beh, oddio, cioè, rito del fuoco è un rito abbastanza complesso. Sì, ma come avviene? In realtà io lo farei in questo modo, sì, metterei delle fascine sotto, certo, diciamo, dopo averlo spogliato, perché se no la plastica... E le fascine le prendiamo dagli stessi rami di spelacchio, tagliamo un po' di rame. Le potremmo prendere anche dagli stessi rami, certo, di spelacchio, quindi mettiamo sotto le fascine e poi dobbiamo dare questo grande onore alla prima cittadina. Da fuoco, lei con la fiaccola da fuoco. Lei pensi che fiammona? La fiaccola la prendiamo direttamente all'altare della patria, ce l'abbiamo anche vicina se vogliamo, no? Ah certo, la fiamma, il fuoco perenne, giusto. Chiaro, quindi prendiamo il fuoco perpetuo e con quello basta mettere una miccia che parte dalla fiamma perenne del Bintendio. No, deve essere portata a mano, no, la tradizione, siamo per la tradizione. Allora, lei va lì, la sindaca Raggi, va lì con una fiaccola, sì, in mano. Perfetto, la intinge nella fiaccola perenne e con la fiamma perenne dà fuoco, certo, a spelacchio. E fa una fiammona che si vede da Zagarolo, la vedono. Fantastico. È una bella cosa. Bellissimo, mi sembra sempre meglio. Maruzza. Pronto? Maruzza. Ah, oh, buongiorno. Sì. Sì. Cosa, buongiorno, ne farebbe lei di spelacchio? Allora, una proposta. Io ho già fatto un intervento su un albero morto, sì, anni fa. Era un cedro del Libano secolare, per cui aveva già avuto la sua vita. Però in ogni caso è un albero popolare, anche questo spelacchio. Quindi lei è una... Mi fa tornare in vita. Cosa farebbe? Io sono un artista e io l'ho ricolorato di azzurro per rianimarlo in blu. Questo è stato... E come colorerebbe spelacchio? Quale colore userebbe? Io uso sempre questo colore blu, che è un po' il colore dell'immortalità. Quindi lei lo vernicerebbe tutto di blu, spelacchio blu. Spelacchio blu, esatto. Tanta, spelacchio, bellissima, chiudiamo qua. Esatto. Spelacchio blu, comunque sia, oggi si è dimostrato che la buona volontà, la considerazione degli alberi impossibilitati ad essere addobbati, dà comunque dei buoni risultati. Spelacchio, tornerai vivo nelle nostre parole o comunque avrai consolazione nel momento estremo della tua vita di albero disgraziato.